I lavori di domani di Anna Marino. Per i lavori ibridi che navigano tra tecnologia e tradizione è necessaria una nuova organizzazione in grado di governare e valorizzare la relazione tra generazioni, lasciando spazio alla leadership della competenza. Premiano questi lavori ibridi i collaboratori con esperienza che riescano ad acquisire quanto basta come nelle ricette, dei saperi digitali e delle abilità relazionali. Come si può riuscire a fare questo mix? L'accelerato ritmo delle innovazioni tecnologiche e organizzative impone di acquisire subito nuove abilità sociali, tecnologiche, tecniche, professionali, e non basta il tradizionale percorso d'aula, ma ci vuole un modo diverso, diciamo un modello Lego. Da un lato sessioni formative come i mattoncini Lego che aggiungono competenze, dall'altro condivisione e simulazione. Certo, è difficile conciliare tutto, ma qui abbiamo una persona, un docente universitario, che può raccontarci come si possono formare questi lavori ibridi e come si può formare un'organizzazione che sappia supportarli. Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale all'Università di Padova, ci spiega appunto l'organizzazione aziendale 4.0. In che cosa consistono questi lavori così gettonati e ibridi? Il lavoro ibrido è la combinazione di competenze, di saperi tradizionali consolidati che hanno fatto la fortuna dell'Italia con dei saperi nuovi, le competenze informatiche, le competenze digitali e soprattutto le soft skills, le abilità relazionali che danno un valore aggiunto e hanno un effetto leva sui saperi consolidati. Viene in mente appunto la macchina ibrida tra carburante tradizionale e nuova generazione elettrica. Ecco, è importante anche sapere questo mix. Queste nuove competenze vanno aggiunte, integrate. Qual è appunto la modalità giusta per diventare un lavoratore ibrido ma che faccia gola al mercato? Seguire percorsi formativi interdisciplinari e far tesoro di tutte le esperienze e le competenze accumulate nella vita. Portiamo un paio di esempi. Se noi andiamo in sala operatoria, oggi e sempre più troveremo chirurghi o chirurghe che operano davanti a una console. Ne consegue che chi ha giocato alla Wii, chi da piccolo o da piccola ha giocato con lo joystick, avrà una maggiore abilità per manovrare tecnologie evolute. Ne consegue anche un'altra cosa, che la reputazione e il valore, diciamo, percepito di un medico o di una medico sarà basato in parte sulle abilità relazionali, ma anche su questa capacità di utilizzare competenze nuove su strumenti nuovi. In officina non esiste più il meccanico. Esiste il meccatronico e il carrozziere deve anche saperne un po' di elettronica, perché se ti sposta il paraurti della tua macchina non basta che lo carteggi bene, ma deve anche mettere insieme la sensoristica. Questi due esempi in due ambiti completamente diversi ci danno la portata, la magnitudo del cambiamento che sta investendo il lavoro e la società. Se non staremo attenti, avremo una società polarizzata e non ci possiamo permettere di averla. Certo, non c'è alternativa, però se le competenze base sono saper giocare alla Wii, saper utilizzare i telecomandi, saper utilizzare ovviamente le leve come i joystick di una volta, quali sono allora le skill necessarie? Quali sono quelle anche che si acquisiscono in aula, cioè dove ci si può formare per i nuovi lavori? L'università e la scuola superiore sta evolvendo per rispondere a questa domanda. Nella scuola superiore pensiamo agli ITS, agli istituti tecnici superiori, che sono il bridge, il ponte tra la scuola superiore e l'università. Lì si fa l'ibridazione day by day, perché quelle persone negli ITS lo studio sui libri, che non ha effetti collaterali, soprattutto non ha effetti collaterali negativi, deve essere fatto in contemporanea con l'applicazione, quindi entrare nei luoghi di lavori, le fabbriche, gli uffici e più in generale dove si sperimenta l'innovazione, mettere in pratica quello che si apprende sui libri, che è indispensabile, con i nuovi processi e le nuove tecnologie che vanno velocissime. In secondo luogo, quando andiamo all'università, scegliere percorsi formativi autenticamente interdisciplinari. Ad esempio, un percorso di data scientist non è un percorso che si inserisce in uno stream consolidato di conoscenza, ma ibrida la matematica, la statistica e le scienze sociali. Quindi abbiamo visto che, come nelle ricette, bisogna un po' mescolare tutto, ma farlo in modo ottimale per ottenere ovviamente la ricetta e il prodotto finale. Quanto basta? Il quanto basta non è banalizzare la ricerca, non è banalizzare la formazione accademica, ma è aver chiaro che il mondo va veloce e che ingessare le competenze e la conoscenza delle persone è un errore che non possiamo fare, che non vogliamo fare e che non ci conviene fare. Dal vostro punto di vista privilegiato, quali sono le professioni più gettonate del futuro e di adesso? Le professioni più gettonate, da un lato, sono quelle consolidate, però rinnovate, quindi in tutti i settori assistiamo a una polarizzazione. Se andiamo in un supermercato, vediamo le persone che sanno organizzare il lavoro, che sanno organizzare le esposizioni, ma che devono ad esempio fare il gaming, organizzare attività di gaming, ingaggiare, come si dice, i clienti di qualsiasi età. Se andiamo in una carrozzeria, se andiamo in un ospedale, se andiamo in una fabbrica, troviamo operai e operaie che mantengono il vecchio contratto, ma che sono radicalmente diversi. E allora lo sforzo che dobbiamo fare anche come comunità che racconta voi e noi che la formiamo è di non esaltare soltanto i nuovi lavori, perché non è con i nuovi lavori che costruiamo il futuro, perché se tutti quelli che fanno i lavori consolidati non vengono aiutati, ce li troviamo sul groppone e non abbiamo le risorse per mantenerli. Prima di arrivare ai consigli utili sui corsi, vogliamo un po' capire dove si trovano questi annunci dei nuovi lavori, se sono il polso anche un po' del lavoro che cambia. Dove si trova il lavoro, insomma, sui giornali? Sì, il concetto di lavoro ibrido l'ho ripreso da una ricerca fatta negli Stati Uniti, dove, analizzando 27 milioni di proposte di lavoro, hanno notato che chiamavano con il nome tradizionale cose, oggetti, lavori radicalmente nuovi. Allora, tenere in considerazione, guardare i giornali, guardare i siti di annunci e cogliere nella lettura delle competenze che ti chiedono come sta cambiando il lavoro. C'è un lavoro che stanno facendo alcuni colleghi del Politecnico insieme anche all'Università di Trento, che, analizzando con i big data, con l'intelligenza artificiale, esattamente queste domande di lavoro e i curricula che girano in rete, stanno anticipando il cambiamento in atto. Questo è molto intelligente. Veniamo ai corsi. Voi che cosa fate per incentivare questi nuovi lavori? Come li formate? Orientamenti e consigli? All'Università di Padova abbiamo alcuni corsi di laurea trasversali. Uno è ad esempio Data Scientist, abbiamo l'ingegneria informatica, l'ingegneria finanziaria, abbiamo corsi di laurea che mantengono magari la denominazione tradizionale, penso a scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, che mettono insieme lettere, che mettono insieme economia, che mettono insieme agraria. Ecco, qui vediamo i mestieri del futuro, dove non si butta via quello che è stato costruito in passato, ma lo si aggiorna e si ha il coraggio, se vuoi, di andare fuori dal seminato, di osare, di alzare la voce, di essere sopra le righe, altrimenti non evolveremo. Veniamo all'altro pezzo, insomma, della ricetta, cioè l'organizzazione. Ci deve essere qualcuno che sa gestire questi nuovi lavori. Certo, però ribalterei la logica: sono i lavori che vanno alla ricerca delle imprese. Le imprese che non si sanno adattare, che non riorganizzano i processi per dare spazio alle persone che hanno queste competenze, che sono tendenzialmente le persone più giovani, si troveranno senza lavoratori. Ne consegue che bisogna formare i manager. Sì, e anche imprenditori e imprenditrici, o, se vuoi, facilitare il ricambio con nuove generazioni al vertice delle imprese. I millennial al vertice delle imprese penso che siano la miglior cosa a cui ambire e quello che dovremmo come comunità richiedere. Avete anche dei corsi per i manager, per chi gestisce le nuove skill? Certo, abbiamo insegnamenti o corsi di laurea in diverse facoltà, in diversi dipartimenti, che vanno in questa direzione. Economia, ad esempio, abbiamo il manager o gli imprenditori dei settori più innovativi, per le grandi imprese, per la finanza, a scienze della formazione e dell'educazione, i nuovi docenti, i nuovi insegnanti, le persone che presidiano i percorsi formativi. All'Università di Padova stiamo facendo per tutti i docenti e per tutti i nuovi assunti obbligatorio un percorso formativo che trasforma il docente universitario in docente universitario 4.0 ibrido, che sa parlare di fronte a una telecamera, che sa usare le nuove tecnologie, che veicola la conoscenza consolidata ed eccellente attraverso i nuovi media, che sono quelli che i nostri figli e i figli dei nostri coetanei oggi apprezzano. Ovviamente anche un professore è necessario che si aggiorni, non solo con la UI. Non solo con la UI, che io non ho mai utilizzato per un motivo motivi anagrafici, io mi sono formato a Ca' Foscari, ho girato un po' il mondo, non tantissimo per la verità, mi sono ibridato frequentando tutti i giorni la società civile e le imprese. La mia formazione è una formazione che storicamente mette insieme la conoscenza accademica con i processi gestionali. Da piccolo sono stato uno tra i fondatori e uno dei presidenti della Ca' Foscari Junior Enterprise Economia. Noi a 20 anni, 21 anni giocavamo a fare gli imprenditori e ci riuscivamo anche. Questi lavori guadagnano di più e soprattutto sfatiamo anche qualche luogo comune. Il mercato del lavoro con il processo di ibridazione è polarizzato. Abbiamo da una parte la tecnologia che riduce il valore di alcuni job, li rende più semplici e li rende, se vuoi, anche meno remunerativi. Dall'altro ci sono mestieri che invece vengono resi più ricchi di contenuto e di retribuzione. Un chirurgo o una chirurga che sa usare la tecnologia digitale per operare a distanza è più raro di un panda. Ne consegue che verosimilmente saranno molto pagati o pagate.